Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Avete sentito già nel corso del GR la notizia, dunque l'Unione Europea parla attraverso il ministro, il commissario UE all'ambiente Janez Potocnik sulla vicenda Ilva. Dice le autorità italiane hanno avuto molto tempo per garantire che le disposizioni ambientali per l'Ilva di Taranto fossero rispettate e ha aggiunto quello dell'Ilva è un chiaro esempio del fallimento nell'adottare misure adeguate per proteggere la salute umana e l'ambiente. L'Italia vuole che l'Europa sia più aperta al mondo, aumentando gli scambi commerciali con il resto del mondo. Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Enrico Letta, durante il discorso pronunciato davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, naturalmente riunite a Palazzo di Vetro a New York. E a proposito di apertura al mondo e di incisività, dunque il tema della politica estera è forse uno dei punti più fragili della costruzione europea. Noi abbiamo un contributo che riguarda la politica appunto estera dell'Unione Europea. Perché la politica estera sia più incisiva, quella di Bruxelles, spiega e racconta Nabil Shat, l'ex ministro degli esteri palestinesi, bisogna cambiare le regole. You have to take a unanimous vote and you have become 28 countries. Per decidere avete bisogno dell'unanimità di 28 paesi ed è molto difficile. Mi auguravo che con la nuova Costituzione le regole sarebbero cambiate, ma non è stato così. Con l'unanimità l'Europa resterà sempre indietro. Europe will always be kept back. Così Nabil Shat ha parlato a Euronet Plus a Bruxelles, al fianco di Arafat e dentro al Fatah sin dai primi anni 70. Nabil Shat ha vissuto tutte le fasi dei rapporti israelo-palestinesi e tutti i tentativi di mediare tra le parti, compreso l'ultimo partito qualche mese fa in cui è negoziatore per il presidente Mahmoud Abbas. Dell'Europa siamo contenti, ha spiegato tra l'altro alla radio belga RTBF, perché mantiene la parola data. Saranno esclusi dai fondi europei, ad esempio, le entità israeliane con attività nei territori occupati, come era stato promesso. Ma c'è quel blocco, come dice Shat, sull'unanimità, che in Europa permane sulla politica estera, ma anche su difesa e sicurezza sociale e politica fiscale. Isabelle Durand, vicepresidente del Parlamento europeo, è sostanzialmente d'accordo. Diciamo le cose che poi non facciamo. Se vogliamo agire, allora dobbiamo cambiare le regole. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine la Croazia aveva cercato di salvare i suoi criminali di guerra, invece cambierà legge. Questo è il risultato della procedura di infrazione intentata contro Zagabria, di fatto appena entrata nell'Unione Europea il 1 luglio di quest'anno, da parte della Commissione. Il servizio. La notizia è di quelle che fanno piacere. Dopo un lungo braccio di ferro con Bruxelles, la Croazia, 28esimo paese europeo da neppure 3 mesi, ha ceduto. L'applicazione del mandato d'arresto europeo sarà totale e varrà anche per i criminali di guerra. Zagabria ci aveva provato a modificare la norma applicativa in materia di cooperazione giudiziaria. Lo aveva fatto, con sospetto tempismo, 3 giorni prima di entrare nell'Unione, limitando l'applicazione del mandato d'arresto ai reati commessi dopo l'agosto 2002. Tutti i criminali di guerra ricercati negli altri paesi comunitari, in testa il numero 1 Josip Perković, non avrebbero così più potuto essere estradati negli altri 27 stati su richiesta delle magistrature nazionali. Una vera e propria sfida a Bruxelles, che in queste settimane ha però deciso di calare l'asso nella manica. Fate come vi pare, ma finirete sotto procedura di infrazione perdendo finanziamenti comunitari, è stato il messaggio fatto recapitare a Zagabria. Compieremo tutti i passi necessari per allineare prontamente e incondizionatamente l'atto sulla cooperazione giudiziaria, ha dichiarato il ministro della giustizia Orsat Miljenić. In Germania preparano già la cella per Perković, ex agente segreto accusato di aver organizzato l'omicidio di un dissidente croato in terra bavarese. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continua quello che in qualche modo è una sorta di tiro alla fune tra Unione Europea e Russia per, diciamo, la zona di influenza, quantomeno sul fronte commerciale. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell'Armenia, che dopo varie trattative ha infine firmato a Mosca l'accordo di partecipazione alla zona di libero scambio appunto con la Russia. Nel frattempo la Commissione Europea oggi ha proposto di aprire al mercato UE, il mercato dell'UE, all'import di vino della Moldova. Una risposta rivolta a Mosca, ancora una volta, in vista della l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio e dell'accordo di associazione con la Moldova da siglare al prossimo summit dell'Unione Europea con i paesi partner dell'Europa orientale. Una misura, riferisce la nota di Bruxelles, che dovrebbe alleviare le difficoltà che il paese sta vivendo con le sue importazioni di vino in alcuni mercati tradizionali, come appunto la Russia, che ha fermato l'import di vino della Moldova come misura di ritorsione per l'avvicinamento del paese all'Unione Europea. Bene, con questo è tutto per Europa 24, che torna domani intorno alle 13:15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.